Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu che stai facendo, fratello? Niente, ammazzo il tempo. I saw you stretched out in room 1009 with a smile on your face and a dream light in your eye. I could not seem to get a line on you, my sweet honey lover. Bubba jewelry jangling down the street, making bloodshot eyes at every woman that you meet. I could not seem to get a high on you, my sweet honey lover. Che non c'è soluzione politica accettabile che passi da un golpe, che passi dai carri armati per le strade, e che quindi chi oggi si lamenta di questa posizione non si rende conto che persino il partito curdo ha detto con chiarezza che non si risolvono i problemi con i colpi di Stato. With your clothes all torn and your late night friends will leave you in the cold gray dawn. Mentre qualcuno sostiene che il wifi faccia male, noi facciamo accordi con Amazon, con Apple, con Cisco. Non andiamo di nascosto a inseguire lobbisti o viceversa di nascosto a incontrare esponenti e personalità del mondo che abbiamo contestato. Quello che abbiamo da dirci ce lo diciamo in faccia. Va bene, iniziamo con questo mega Renzi, questa ultima settimana di 24 mattino, signori. Sono le 6:31 minuti da venerdì, ce ne andiamo in ferie. Mamma mia, adesso cominciamo. È il tormentone di oggi, caro Peter Bescape. Sì, ce ne andiamo in ferie. Sì. A giudicare però dai vostri messaggi che latitano alle 6:31, siete voi che siete in ferie, cari signori? Al 349-238-6666, a parte Marco Monteveglio, che mi dice meno 5 all'alba, grazie Marco. Per il resto un po' è lunedì. Anche le mega venerdì, anche le proprie lunedì. Oh! Un po' è lunedì, dicevamo. E la 169esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. Sono le 6:32. Eccovi qua che arrivate. Roberto di Badia Polesine, presente. Anche la nostra Marie-Françoise, che saluta a Monte Carlo, come sempre. Cristian da Bolzano, eccolo qua, salutoni da San Severo, buona settimana a tutti, ci salutano tutti dal Lago di Garda, Luciana, Marco da Remedello. Cos'è Remedello? Lorenzo Nespoli inizia a controllare i paesi più pazzi del mondo. Remedello. Poi c'è Colle Brianza, presente, Torino. Remedello Brescia. Ah, Modena presente. Vabbè. Mauro da Zurigo. Evviva, ci siete tutti. E allora devo annunciare questo. Sono le 6:33 minuti. Voglio subito salutare con noi Alessandro Giglioli, che non va in ferie. È sempre qui all'Espresso, è sempre con noi. Per adesso. Buongiorno, buongiorno. Dove vai in ferie? Ma sono fatti miei. Vado alla Capraia, bravo. Isoletta, lo dico, perché vado da circa 50 anni, quindi non è una grandissima. Da circa 50 anni, allora facendo il calcolo, tu potresti andare da quando hai 10 anni o 12 anni? No, 4, quindi hai fatto il calcolo giusto. Va bene, mi sembra giusto. Dai. Allora, dall'Andalusia ci saluta Sandro da Aguamarga, presente. Ma che bello, ma guarda, stanno arrivando da Merate, Düsseldorf, ragazzi, la Germania. La Germania, anche ieri abbiamo assistito alle 10, c'è stata un'esplosione vicino a un ristorante, pare un ordigno, quindi pare che sia addirittura un attentato fallito, perché è morto la persona che lo portava. Ah, mala tempora currunt. E insieme a Alessandro Giglioli, però, voglio salutare subito il quasi omonimo, il nostro Carlo Rienzi. Buongiorno. La I che fa la differenza, la I di Italia che fa la differenza. Piace questo. Votatelo! Ma basta. Sei già candidato. Giglioli, tu l'hai votato Rienzi a Roma? Devo ammetterlo. Non la prenda sul personale, diciamo. No, devi ammettere di no. Ha fatto bene. Lui ha fatto la campagna elettorale contro i cittadini per il programma da sindaco, contro i cittadini, e dico, ma così non la votano, e chi se ne frega. Questo erano i due punti del programma di Carlo Rienzi. Il segnale era quello, no? Vediamo se i cittadini di Roma si vogliono sacrificare. Non si vogliono sacrificare perché lui ti toglieva via il traffico. Magnaccioni, no? Abbiamo raccontato esatto, magnaccioni. Venivano, mangiavano, bevevano, cose elettorali. È fantastico! Fantastico! Cioè, venivano alle iniziative elettorali a mangiare. Ho scritto un pezzo sull'Huffington Post, e così venivano invitati, tutti contenti. Bravo, che bel programma! Poi siamo contenti, poi si buttavano sul buffet e via. Non hanno votato. Ma guarda Giglioli, ma questi ingrati, la famosa politica che è ingrati, mamma mia, tutto per la mortazza. Che ingrati. Allora devo aprire il Parlamento, perché la notizia su tutti i giornali, dai, aprono tutti i giornali su questo, molti giornali, non è notizia per alcuni di prima pagina, ma c'è gli stipendi della RAI. Dai, su. Allora, devo leggerne alcuni, perché... sì. Monica Maggioni, presidente, 370.000 euro. Carlo Verdelli, direttore dell'informazione, 320.000 euro. Vabbè, c'è Campo Dall'Orto, ovviamente, l'amministratore delegato, 650.000 euro. Tutto perché c'era il tetto da 2,40. Ilaria Dallatana, direttore Rai 2, 300.000. Daria Bignardi, Rai 3, 300.000. Poi devo continuare. Alessandro Giglioli, guardalo qui, 270.000. Buona, che qualcuno poi ci casca. L'ultimo è finto. Giglioli è finto. Noi gli facciamo un esposto alla Corte dei Conti. Eccolo lì, l'esposto del Codacus. Perché non si capisce perché debbano superare i limiti di legge per la RAI. Tra l'altro è piena di soldi con questo cavolo di canone in bolletta, sì, che non si capisce niente. E tra l'altro chi non deve pagare la bolletta, stiamo chiedendo all'Agenzia delle Entrate cosa deve fare, perché se uno contesta la bolletta, che il consumo non l'ha fatto e non la vuole pagare, vuole fare il reclamo, che cosa fa? Non paga manco il canone a quel punto. Perché per pagare il canone deve fare un bonifico che gli costa 8 euro, che su 10 che ne deve pagare sono 18. È una cosa folle questa cosa del canone. Folle. Giglioli, da collega, dai, adesso un po' di invidia sociale, intanto spariamola, e così noi invidiamo ovviamente i 300.000 euro di Bignardi, per esempio, no? Invidiamo? Si possono fare tante cose con 300.000 euro, dopodiché, insomma... molta morbosità anche, sì, no? Cioè, il tema è un tema prettamente estivo, sparare quanto guadagna la gente, poi vabbè, giusto, trasparente. Però questa è pubblica, questa è la RAI. È pubblica, giusto. E c'è il tetto, ma soprattutto. La leva che fa scattare in noi lettori è proprio quella della curiosità quasi animale di andare a vedere chi guadagna quanto. Ho capito, ma sono i soldi nostri, giusto, non sto dicendo mica che sbagliato, i soldi della tassa. Bravo, mi piace Giglioli che va un po' controcorrente, insomma, dai. Il meccanismo, infatti anche Milan ci ha aperto la trasmissione. Giustamente, anch'io se avessi il quotidiano. Vabbè, ma tutti i giornali, guarda, tutti i giornali qua. È giusto, è un bel tema estivo con tutte le tabelline divertenti. Poi, onestamente, ci si vedono anche casi grotteschi, al di là di quelli illegali, che sono, di gente che non fa una mazza da anni e che piglia 200-300 mila euro e lì fa scattare quello che Milan chiamerebbe mani sul volante, credo, no? Perché se uno non fa niente da anni. Per esempio, viene intervistata. No, è un po' brutto adesso andare a cercare. Ma Repubblica intervista Carmen La Sorella, che dice: effettivamente non ho incarichi. 200.000 euro in Rai, non ho incarichi. Sono dopodiché, onestamente, Milan, se uno ci desse 200.000 euro per non fare una mazza dal mattino alla sera, tu gli diresti onesto, direi, diresti, guarda, no, io voglio lavorare per molto meno. No, gli farei uno sconto a 190. gli farei uno sconto a 190. effettivamente, quindi il problema non è lei, ma è chi la mette. Pubblici. Sì, infatti, no, la questione che Rienzi però ha ragione, sono soldi pubblici. Ma il problema è chi la mette, chi le dà quello stipendio per non fare niente, è il segno di un'azienda un attimo ubriaca, no? Ma per esempio il presidente della commissione Rai, Fico, fa due interviste e dice: per me chi prende quei soldi e non ha un incarico è licenziabile, proprio in maniera brutale. Rienzi, che dobbiamo fare? Sì, Fico ha detto questo. Fico. Bravo, che lui adesso si è svegliato durante le elezioni, lasciava che la Rai desse vantaggio ai 5 Stelle tutti i giorni. C'era avvelenato. Ha fatto una battuta che proprio non ce l'aveva qua sul C'era avvelenato, Rienzi, perché non è andato in TV. Licenziati. Non li possono licenziare perché poi li devono riassumere. È la politica dissennata di chi gestisce servizi pubblici. È una follia. Noi abbiamo sprechi nei servizi pubblici, ma anche nei servizi pubblici locali, miliardi di sprechi, e poi abbiamo 4 milioni di poveri, di famiglie povere, che non possono pagare la bolletta della luce. E a proposito, domani siamo al TAR della Lombardia. Ecco, domani. Domani è vero che domani il Codacons ha fatto questa roba che ha bloccato. Abbiamo bloccato, domani siamo lì perché l'autorità di energia ha detto no, dovete pagare, anche se deriva da un imbroglio dei grossisti. Noi non sappiamo come fare, pagano i cittadini. Vabbè. E questa è un'altra cosa. Vabbè, intanto fate l'esposto sulla Rai, eccetera. Vabbè, che devi fare? Licenziare, effettivamente. È stata utilizzata in maniera un po' impropria, possiamo almeno dire così, Giglioli, la politica in Rai. No, ma non mi far passare per uno che è contento. No. Per carità, il problema è ovviamente, come sempre, la natura bifida, incerta e un po' assurda della Rai, che è un po' azienda privata, quindi cioè culturalmente, quindi sbatte dentro spot a dismisura e fa programmi di basso livello per ottenere l'audience. D'altro canto però è un'azienda che avrebbe un contratto di servizio bellissimo, dove ci sono scritte cose bellissime che non fa praticamente mai, se non con pochissime eccezioni. E poi ci sono queste situazioni che si sono incrostate negli anni di assunzioni spaventose, quasi sempre clientelari, quasi sempre politiche, anzi diciamo pure sempre politiche, in cui il famoso concetto in base al quale uno dovrebbe guadagnare o secondo quanto produce in termini di fatturato o secondo quanto produce in termini di reputazione viene invece ignorato, perché questo poi è il punto fondamentale. Cioè, c'è un valore reale in termini di produzione di fatturato o di reputazione da parte di tutte quelle persone che guadagnano 200-300 mila euro l'anno? Un grossissimo punto di domanda che andrebbe, per carità, risolto caso per caso, però un grossissimo punto di domanda. Ma uno che guadagna, che fa intravitare i soldi alla Rai con il canone obbligatorio, ma che valore di produzione c'ha? Una Rai che fa la stessa pubblicità, se non di più, delle reti private e prende altri soldi, ma che valore di produzione c'ha? Questo è il punto. Tanto sono soldi pubblici, gli diamo quello che vogliono. Perché? Perché devono essere evidentemente vicini a chi ha deciso questa deroga. Vabbè, c'è un massimi, ascoltatore, caro molto incavolati. Siamo molto incavolati, fate un bel esposto e infatti lo farete. Roberto ci scrive: almeno per la Rai ci vuole Erdogan. Non scherziamo su cose molto serie e su cose molto molto molto dopodiché drammatico. Sappiamo che due cose a margine, una cosa simile viene ahimè, in moltissime aziende pubbliche italiane, questo, o partecipate italiane, qua a Roma ne abbiamo, sì, abbiamo delle partecipate con stipendi spaventosi per produzioni scarsissime e qualità scarsissima, e questo è un grossissimo problema, perché va a inficiare tutto il principio in base al quale il pubblico dovrebbe offrire servizi pubblici e invece serve a compensare politici. E il secondo punto che vorrei dire, che io conosco, ahimè, e penso anche tu, Alessandro, tantissimi colleghi che lavorano alla RAI, precari da 4 anni o da 6 anni, contratti di 6 mesi a 1200 euro lordi al mese, e allora, anche più di 4 anni. Allora qui allora la, come dire, la differenza fra privilegi e sfruttamento e fa ancora di più girare. Però ad esempio, non so, c'è uno stipendio sul quale mi vorrei concentrare, giusto per chiudere, i 230.000 euro a Francesco Merlo, giornalista di Repubblica, consulente Rai, eccetera, che oggi scrive in prima pagina di Repubblica: con i figli a caccia di Pokémon. Due pagine. Questa dei Pokémon. Poi io lo sapevo che poi dopo questa storia dei Pokémon doveva finire così. L'avete vista l'apertura ieri del Fatto Quotidiano, che oggi insiste: ad Auschwitz anche i Pokémon. Hanno messo i Pokémon anche ad Auschwitz. Uno va ad Auschwitz invece di entrare ad Auschwitz con il dovuto atteggiamento, con il rispetto, la memoria. Insomma, va lì a cercare i Pokémon. C'è gente che cerca i Pokémon ad Auschwitz. Li hanno trovati 133. Vi rendete conto, caro Giglioli? Io non sono contro le mode, la modernità, la tecnologia, i giochini, è bello. Anch'io gioco alla Wii. Sono l'allenatore del Palermo. Sei bravo del Palermo. Ho vinto con il Sassuolo la Champions League. Fai conto. Beh, mica male, bravo. Però i Pokémon sono un giochino divertentissimo. Fanno alzare le persone. Io non ci ho ancora giocato, però ho diversi amici. Non ancora. Non sei obbligato. No, lo potrò anche fare. Non ho pregiudizi. Dopodiché, cioè, anche lì c'è un problema di nuovo. Non solo di buon gusto, ma anche di rapporto fra queste potenze gigantesche dell'informatica, sì, della queste cosiddette over the top della tecnologia e noi tutti, no? Per cui forse il signor Nintendo, prima di mettere i Pokémon ad Auschwitz, avrebbe anche avuto il dovere di chiedere il permesso a qualcuno. Abbastanza. Che ne so, ma Rienzi sa cosa sono i Pokémon? Rienzi, sai cosa sono i Pokémon? Mi sto informando. Sì. Sto guardando su internet. I Pokémon Go. Cosa sono i Pokémon Go? Rienzi, qua manca l'esposto del Codacons. Sono i giochetti dei bambini, guarda, sì, grazie. Beh, Pokemon. Bambini non di tutte le non tanti. È proprio dei bambini, quella no, secondo me è la versione. Gente più anziana di me, con la faccia impallata. I Pokémon, Rienzi, non si parla d'altro sui giornali, la gente che cerca i Pokémon per strada e si schianta contro i pali. Videogiochi, sezione videogiochi. Dai, andiamo al traffico. Dai, ci stiamo avvicinando. Dai, c'è tempo del traffico e della segreteria telefonica. Poi Rienzi, due minuti. Dai, l'informazione è quella veloce, quella smart. Tra poco. Milan, o traffico, what cosa, tentacolà. Buongiorno, ieri metropolitana Milano, stazione centrale, linea 3. Abbiamo bloccato una borseggiatrice, la vigilanza ATM è arrivata in 5 minuti, la polizia in 20 minuti. Fosse stato un terrorista? Punto di domanda. Milan, provincia Bolite, l'unica regione siamo noi, Friuli Venezia Giulia hanno approvato, solo noi. Milan, visto che stai facendo il conto alla rovescia per andare in ferie, volevo farti una proposta. Va pure in ferie, ma stacci per sempre, non tornare più! Ecco, vedi, a magari 200.000 euro l'anno, caro Giglioli, ho trovato uno che... Ci staresti tu, non saresti contrario a questa proposta. No, manca un finanziatore per 200.000 euro l'anno. Esatto, perché poi c'è ci famosa siamo. Famiglia da campare. Esatto. Poi dirlo alla sono la... pronto allo sconto a 190, l'ho già detto, non sono un micragnoso e quindi 190 mi vanno anche bene. Allora, io lo so che voi... siete in... ecco, per esempio, questa cosa che ho visto oggi sui giornali, caro Giglioli, so che tu la pensi come me, sono certo. Non so come la pensa Rienzi sulla questione della legalizzazione della cannabis. Secondo me è una cosa che bisognerebbe provare, bisognerebbe fare. Non so se sia la panacea di tutti i mali, non certo toglierebbe il mercato, il traffico, ci sarebbe comunque il traffico di altre droghe, ma insomma forse depotenzierebbe un po' di economia per i criminali. Che succede? Ovviamente doveva partire oggi e partirà oggi il dibattito, 2000 emendamenti, tutto a slittare, tutto a rinviare, come no si fa, no, Giglioli in questi casi, che fa il Parlamento? Rinvia, che poi tanto è un peccato, è una roba a costo zero che avrebbe anzi un immediato effetto positivo in termini di lotta a una parte della criminalità. Io, il mio modello è quello del Bhutan. Il Bhutan? Sì, in Bhutan tu metti la mano fuori dal finestrino e tiri su la marijuana dalla pianta che cresce libera e selvaggia. Sai che la danno ai maiali in Bhutan? Perché sì. No, veramente ma bellissimo il modello. La mescolano al tipo dei maiali, perché la marijuana è un po' tende a ingrassare se ne fai uso. E quindi loro vogliono ingrassare. Abbiamo i maiali più contenti del mondo in Bhutan. Perché si fanno di marijuana, ingrassano e sono contenti anche con degli allevatori. Ma questa secondo me, guarda che se la suggerivi a qualche parlamentare la metteva. E io la suggerisco pubblicamente adesso. Siamo attenti. Modello Bhutan. Ecco, vedi. Attenzione Rienzi. Di nuove droghe che arrivati. Ma certo. C'entrano niente. Il Dipartimento Politica Antidroghe della Presidenza del Consiglio non sa nulla, perché ma non cosa fa c'entra praticamente questo, più Rienzi? Nulla. No, ma Rienzi, mica, no, legalizzare le droghe. Vino rosso e tu parlassi del crack. Cioè, no, legalizzare le droghe leggere, esatto, la marijuana. Lo so, ma le droghe leggere con queste nuove droghe sintetiche pericolosissime possono essere un pericolo. Io non sono contrario, ma vorrei uno Stato che si occupa molto di più delle dipendenze, dal gioco d'azzardo alle droghe, al fumo, al tabacco e quant'altro. Questo non lo abbiamo, perché sono cose che portano soldi, soprattutto il tabacco. Beh, questo sì, questo sì. Infatti, perché bisogna, infatti stavo arrivando io, perché dovrebbe lo Stato disincentivare il fumo, a parte le solite campagne un po' ipocrite, mettono sui pacchetti che ti fa male, ti fa venire il cancro. Il costo sanitario dei morti e dei malati di tumore, come del gioco d'azzardo, il costo ormai delle cure dei ludopatici supera gli introiti, ma ci guadagnano in tasse, mentre i costi sono dilazionati del gioco d'azzardo. Ci guadagnano in tasse, ma chi gliele tocca le tasse? Comunque vorrei dire a Rienzi che dà più dipendenza al Pokémon Go, ecco. Anche questo, un'altra dipendenza. A proposito, è riuscito a capire, Rienzi, ci siamo? Abbiamo capito tutto che cos'è il Pokémon Go? Sì, ho capito tutto. È un modo per far guadagnare una multinazionale probabilmente no, con le mazzette. Ma no, ma no. Vabbè, ma c'è un pezzetto di vero anche in questo. Ma no, ma non si può sempre vivere. Approfitto per dare un invito. Faremo a ottobre una rassegna di cortometraggi sulla legalità in coincidenza con la festa del cinema. Chi ne ha o li vuole fare anche di 3 minuti, giovani emergenti, questo non è male Giglioli, non l'ho capito, scusa, fanno un concorso di sui video sulla legalità. Bello, sulla legalità. Vediamo bello. Che cosa esce bello. Fuori bello. Ma come vi contatta? Codacons.it? sì, c'è il nostro sito, ci rimanda e faremo una grande iniziativa con i comuni e con le aziende, una carta della legalità, perché siamo stufi che tutti poi quando vanno in galera dicono ma noi eravamo così bravi, così bravi. Se si impegnano a delle cose precise, perché gran parte dello sfascio della nostra economia è dovuta alla corruzione. Vabbè, però è il momento in cui devo tirarvi su di morale, quindi caro Giglioli ti becchi un bel Massimo D'Alema. Guarda che Massimo D'Alema è un grandissimo troll diventato D'Alema. Guarda che è fantastico D'Alema. Come troll, ma io non ho capito perché ha fatto lo statista per 20 anni, doveva fare il troll fin dall'inizio. Fantastico. È il più grande oppositore di Renzi in questo momento, cioè proprio una roba. Senti qua, D'Alema, sui 5 stelle. Cioè. Senti. È difficile che il partito che ha più voti non vinca le elezioni, qualsiasi sia la legge elettorale, diciamo. diciamo. E compreso naturalmente 5 Stelle, che in questo momento è forse il maggior partito italiano. Eccolo lì, il 5 Stelle è il maggior partito italiano. Potrebbe fare lui, diciamo, il leader, diciamo, presidente del Consiglio dei 5 Stelle D'Alema, non sarebbe male. Non sarebbe male. O sente ancora Giglioli, deve vincere il no al referendum. Siccome io penso che bisogna riscrivere la legge elettorale, non credo che ci sia tempo prima del referendum, e penso che la migliore garanzia perché la legge elettorale venga davvero cambiata è che vinca il no al referendum. Giglioli, no, ma guarda che il problema di D'Alema è, sì, che anche quando ha ragione nel merito, che capita ultimamente, sì, è D'Alema, e quindi solitamente, diciamo, provoca l'effetto autorete, insomma, cioè, tende, sì, sì, a portare la gente a dire: ma se lo dice D'Alema forse è vero l'opposto. Questo è un po' l'unico, ma come problema. Mai? Come mai è riuscito perché, in questo perché intento? Poi alla fine c'è un, perché dopo 20-25 anni in cui ha governato più o meno come governava Renzi, aveva un progetto culturale e politico per nulla dissimile da quello di Renzi, si è circondato di persone che non a caso ora stanno tutte con Renzi, ha attuato una politica che evidentemente l'ha portato, ha spalancato le porte al renzismo, e adesso è un po' tardino per riverginarsi. Dopodiché è divertentissimo quando dice che lui legge i libri anche se contro la linea del partito, io rido per 20 minuti, perché sono delle battute straordinarie, come battutista è geniale, e devo dire, diciamo, ci rende anche un po' più piacevole, sì, il dibattito politico, altrimenti moscio. Allora, esatto. C'è un caso in Belgio di una pubblicità, attenzione, la vedo qui sul giornale, c'è una 500, è una pubblicità per evitare, per invitare le persone a non gettare rifiuti sulle autostrade, fin qui tutto a posto, solo che c'è una 500, una Fiat 500 vecchio style, vecchio modello, proprio il cinquino, e c'è un maiale che guida e butta la spazzatura, l'offesa agli italiani, eh? Ah, la Volkswagen che ha fatto? Ha buttato più zozzerie dappertutto con le macchine truccate. Quello si può buttare, la carta no. E c'è il maiale, che rappresenta l'icona dell'italiano, insomma, mafioso e sozzone, che questa è la verità. Invece i tedeschi no, poi pagano in America, pagano i risarcimenti, in Italia no, capito, no. Mafiosi e zozzoni, che vergogna. Guarda, io una volta ero negli Stati Uniti in macchina, e non io giuro, ma la compagna vicino a me, ormai, sì, parlo di 30 anni fa, buttò una carta. L'hai lasciata immediatamente? Spero. No, che l'ho lasciata immediatamente? Se sentite la sirena, è partita la sirena, ci hanno bloccato, e c'era la polizia dietro, è partita la sirena, io ho pensato, ma no, cosa ho fatto? Hanno fatto quelle, sai, che scendono con le pistole, poi ti dicono stia fermo con le mani sul volante, proprio veramente. Urlavano dal megafono della macchina, non capivi, io pensavo fosse Dio che mi successo che era un bastardo, invece era la polizia, mi sono spaventato tantissimo, ho preso un tale spavento, e devo dire che è stata una bella lezione. Credo che pochino sarebbe utile, perché non è che il fatto che le aziende inquinino vuol dire che noi possiamo buttare la carta dalla finestra. Certo. Una illegalità, mi insegna Renzi, non è giustificato un'altra. Esatto. Giusto? Comunque voglio chiudere così nel ringraziarvi, cominciare a farvi gli auguri e di buone vacanze man mano che vi incontro in questo Parlamento, con una canzone storica. Guardate che è un giorno, il mondo che potrebbe essere un giorno veramente, non ci vuole più, di rivoluzione. Caro Giglioli, tu hai mai cercato una canzone su Spotify, su queste piattaforme, su Google di Battisti? Beh, certo, ho un figlio di 15 anni. Non puoi ascoltarle? Non posso? No, non puoi, cioè non le trovi. Cioè su YouTube sì, ma non so, su altre piattaforme è tutto bloccato, perché c'è un contenzioso tra Mogol e la vedova di Battisti. E no, il tribunale ha dato ragione a Mogol, per cui la vedova di Battisti non potrà tenere per sé tutte le canzoni e potranno essere messe a disposizione ora su tutto il web. Se tu vai su Spotify, per esempio, non esiste una canzone di Battisti, solo le cover, non c'è originale. Non la sapevi questa? Non la sapevo, mi hai fregato. Ma guarda che è un dramma, io un giorno l'ho cercata, è un dramma. E invece oggi è arrivata questa sentenza, cioè ieri, bene. Quindi liberi tutti, adesso ci liberi posso ascoltare tutti. Da oggi. Il mio canto libero è evocativo. Dai, vi devo salutare, vi devo ringraziare, Alessandro Giglioli e Carlo Rienzi, la I che fa la differenza. Rienzi, ciao. Si offre nuda a noi e limpida l'immagine. Ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. Ciao grande Alessandro Magno. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Alle 7:18 minuti, signori, la 169esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata, ed è cominciata anche l'ultima settimana di diretta di 24 mattino, eh? Poi fino a venerdì, poi andremo in ferie, ma ci sono ovviamente i colleghi, la programmazione di Radio 24 continua come se nulla fosse, anzi meglio sicuramente, e però noi ci fermiamo un po'. Intanto siamo qui a leggere i giornali nella consueto spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Dai, buttiamoci, tuffiamoci. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. Mannaggia, padre Livio Fanzaga, un po' ha ragione. In realtà le tematiche in questo lunedì 25 luglio ci sono, ogni giornale fa un'apertura diversa oggi più o meno. L'apertura del Sole 24 Ore su concorrenza, giustizia, sanità, tutte le riforme in lista d'attesa ritardano in Parlamento i lavori su importanti provvedimenti di riordino presentati dal governo. È un esame di tutti i decreti legge in scadenza e tutti i provvedimenti che servono per renderli operativi. Per il Corriere della Sera, l'attualità in Germania, il killer aveva un complice. Questa è la vicenda di Monaco, l'assassino di Monaco preparava l'attacco da un anno. Repubblica invece apre sugli Stati Uniti, sorpresa Hillary contro Trump, c'è Bloomberg, l'ex sindaco repubblicano di New York sceglie la Clinton, al via la convention dei democratici. Per la Stampa invece, i migranti in Italia, 3 comuni su 4 non li accolgono. Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100.000 profughi in Italia oggi sulla Stampa. Il Messaggero mette in prima pagina la frase di Padoan dal G20, banche italiane non c'è rischio, Padoan e Visco assicurano sistema solido e dai salvataggi nessuna ricaduta sui risparmiatori. Libero invece ha un'intervista in prima pagina a Tremonti, per rubarvi soldi l'Europa imbroglia, parla l'ex ministro dell'economia. Mentre le aperture di alcuni giornali sono sulla RAI, e da qui voglio partire anch'io. Il Giornale, i super stipendi RAI si mangiano più di metà canone, mentre il Fatto Quotidiano è un'intervista al presidente Vigilanza RAI, Fico, sprechi RAI, colpa del governo. Allora, verranno resi noti oggi ufficialmente, ma il web ha anticipato gli stipendi dei dirigenti RAI che superano i 240.000 euro tetto da 240.000. Verranno messi online oggi tutti gli stipendi oltre i 200.000 euro. È una decisione presa da Antonio Campodall'Orto, amministratore delegato, che prende 650.000 euro. Il famoso tetto dei 240.000 euro non esiste, è superato da tempo, altrimenti lo rispetteremmo, sostiene così l'ex l'amministratore delegato della RAI Antonio Campodall'Orto, che entro stasera metterà appunto online gli stipendi oltre i 200.000 euro, compreso ovviamente il suo. Metterà anche le consulenze da più di 80.000 euro, definendo quello di oggi il nostro D-Day, il giorno della trasparenza, che è un'opportunità e non un obbligo. Leggo dall'articolo di Giovanna Cavalli a pagina 10 del Corriere della Sera. E allora eccoli qua gli stipendi già anticipati, a parte quello di Campodall'Orto 650.000, spiccano il presidente della RAI Monica Maggioni 370.000 euro, il direttore dell'informazione Carlo Verdelli 320.000, i direttori di Rai 2 Ilaria Dalla Tana 300.000, stessa cifra per Daria Bignardi che dirige Rai 3. e poi il direttore del TG1 Mario Orfeo 320.000 euro, Bianca Berlinguer che dirige il TG3 280.000. Poi ci sono alcuni casi, per esempio Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto 270.000, alcuni casi come i casi di coloro che prendono lo stipendio ma non hanno incarichi al momento. Andrea Vianello, ex direttore di Rai 3, inutilizzato a 320.000 euro. Queste sono indiscrezioni, perché in realtà è oggi che verranno resi noti in maniera ufficiale. Carmen La Sorella, 200.000 euro, ex volto del TG2, inutilizzata. E così Francesco Pionati, ex volto del TG1, inutilizzato 200.000 euro, tanto che Repubblica li elegge, diciamo così, a emblema degli sprechi e l'intervista. Carmen La Sorella, pagina 10, Repubblica. È sbagliato affidare incarichi a esterni se in azienda ci sono persone che hanno competenze. Io in 30 anni in Rai ho visto di tutto e di più. È lo specchio di un paese dove non vince il merito, ma le logiche dei circoli e dei gigli magici. Verrebbe da aggiungere, ma in quale settore dell'Italia vince il merito? In nessuno, quindi non vedo perché dovrebbe fare eccezione la Rai. E allora il direttore generale del Campo dall'Orto sostiene l'esatto contrario, cioè che la meritocrazia c'è. Me lo auguro, risponde Carmen La Sorella. Ci sono da nominare i nuovi direttori dei TG, io mi candido, ho i numeri per poterlo fare. E poi ammette, effettivamente non ho alcun incarico da quando nel 2014 l'azienda ha chiuso la società Rainet. 200.000 euro senza incarichi. Così Francesco Pionati, che dice: io non sono alla Rai da ieri, lasci parlare i politici, so come fanno, sono stato in politica anch'io. Per la verità lo stipendio è da 203.000 euro. Dice: non voglio parlarne perché ho aperto una discussione di una mia collocazione all'interno dell'azienda, ho aperto una forma amichevole di contenzioso. Ma si sente messo da parte lei? Beh, che ne dice? Comunque, la RAI, oltre a far uscire gli stipendi, pubblicherà anche i curriculum con le carriere. Un conto è chi è entrato un anno fa, un conto è essere qui da 30 anni. Ora la saluto, arrivederci. Francesco Pionati, 200.000 euro. Vabbè. Il presidente della commissione vigilanza Rai Fico rilascia due interviste alla Stampa e al Fatto. Eccolo qua intervistato sulla Stampa, Ilario Lombardo: prendono troppi soldi, io dico licenziate chi non lavora. La Rai è un'azienda pubblica, non ci si può nascondere dietro le esigenze di mercato. E dice Fico in questa intervista: per me chi prende soldi ed è inutilizzato è licenziabile. Della stessa vicenda parla anche Orfini, presidente PD, che dice, intervistato dalla Repubblica da Goffredo De Marchis: io non lascio ai 5 Stelle e a Di Battista e a Di Maio questa battaglia. Il Partito Democratico l'ha fatta 5 anni fa denunciando gli stipendi ai dirigenti Rai e lo scandalo di chi li prendeva non facendo nulla. Ora Campo dall'Orto ha il dovere di trovare una soluzione al problema. E dice anche lui, Orfini: sono una vergogna i soldi a chi non fa nulla. L'amministratore delegato ha il dovere di agire. E adesso, cari signore e signori, andate pure a pagare il canone della Rai in bolletta dopo le notizie che avete ottenuto. Sempre col sorriso sulle labbra, mi raccomando, sempre col sorriso sulle labbra. Volete invece pagare una multa? Mi è arrivata una multa, mi è arrivata ancora. Caccia la miseria, un'altra multa nel divieto di sosta. Qualche giorno fa era in divieto di sosta, sì. Quindi, cioè divieto di sosta, sì, quei settori, come dire, non residenti, ecco, come si vuol dire. Vabbè, allora, multe, infrazioni stradali, pagina 6 del Sole 24 Ore, oggi Dario Acquario e Gianni Trovati fanno il punto della situazione. Se volete c'è la classifica città per città, siete di Padova, di Pisa, di Parma, di Firenze, di Pistoia, di Pavia, di Brescia, di Novara, di Cuneo, di Siracusa, scoprirete quante multe il vostro comune ha fatto sul Sole 24 Ore nei primi 6 mesi dell'anno. Sappiate che il totale dei comuni è questo: i comuni hanno incassato nei primi 6 mesi del 2016 476 milioni di euro. Pensate che sia molto? Sappiate che è il 12,2% in meno rispetto all'anno scorso. E dunque le multe in calo. Milano, Torino e Genova hanno fatto meno multe del 40%. O meglio, incassi meno del 40%. Forse non è che le hanno fatte meno, è che la gente ne paga di meno. Nei primi sei mesi, queste sono le riscossioni, 476 milioni, riscossi il 12,2% in meno rispetto all'anno scorso. Non è detto che non vengano, però, fatte le multe, è che la gente probabilmente non le paga. Non le paga. A proposito di multe, c'è una cifra invece che riguarda un grande cantante, uno dei cantanti più storici d'Italia, vale a dire Lucio Battisti, un contenzioso che si trascina da anni e che è stato almeno in primo grado risolto dal Tribunale di Milano. Era un contenzioso che vedeva contrapposti Mogol, il grande Mogol, collaboratore, paroliere, artista, che per anni è stato l'anima di Lucio Battisti, l'anima artistica di Lucio Battisti, e la vedova di Lucio Battisti, Grazia Letizia Veronese. Contenzioso che da anni ha portato di fatto al congelamento, in qualche modo qualcuno accusa al rischio di oblio, di tutti i brani più storici di Lucio Battisti che sono sempre più introvabili in rete. Su alcune piattaforme non sono assolutamente riproducibili, ci sono solo le cover. Non è mai stata utilizzata una musica di Lucio Battisti per, non so, una pubblicità, magari per qualcuno un bene, non è mai stata associata a un film, non è mai stata associata perché c'era quello che il Tribunale di Milano ha definito un ostracismo della vedova di Lucio Battisti alla promozione, all'utilizzo e alla celebrazione dei brani del marito. E solo che questo potrebbe finire perché il Tribunale di Milano ha dato torto alla vedova di Lucio Battisti, dando ragione a Mogol. C'è anche in ballo un risarcimento a 2.600.000 euro che la società della vedova dovrà dare ora a Mogol. Ma soprattutto la notizia forse più importante per tutti i fruitori, tutti gli ascoltatori, tutti gli amanti della musica è proprio questa: torna il canto libero di Battisti, il tribunale dà ragione a Mogol, Il Giorno dedica una pagina a questo, è anche il giornale che mette la notizia in prima pagina con il commento di Paolo Giordano che dice: insomma, il canto di Battisti ritorna libero. Il Tribunale di Milano ha detto la sua sulla vexata questio. Da decenni oppone Mogol alla vedova. Uno vuole conservare in piena luce il repertorio di uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, al quale ha contribuito scrivendo i testi delle canzoni che hanno cambiato il nostro costume, il nostro linguaggio, mentre l'altra, la vedova, responsabile di maggioranza della società Acqua Azzurra, che gestisce le edizioni musicali, inspiegabilmente lo vuole lasciare scomparire nell'oblio. E la vicenda è davanti agli occhi di tutti. Lucio Battisti non è presente sul web se non in forma artigianale, piratesca. Delle sue canzoni non sono possibili lo streaming, il download legittimo. Sono passate sempre più raramente dalle radio. Ora, questa sentenza che dà torto, è vero, è il primo grado, alla vedova potrebbe, come dire, riliberare il canto libero di Lucio Battisti. Ce l'auguriamo tutti, credo. Credo. Ma eccoci qui, l'articolo che mi fa pensare della giornata. È Luigi Ferrarella che racconta questa storia molto emblematica di burocratismo, non dico neanche burocrazia, malattia diffusissima in Italia, burocratismo. Supera il test, ma lo annullano. E perché? Le domande erano troppo difficili. Eccolo qui, in barba alla meritocrazia, succede alla ASL di Pavia, come racconta il Corriere a pagina 19, dove un'unica candidata su 64, una 39enne, supera e viene dichiarata idonea a un ruolo nel campo del Dipartimento Prevenzione Veterinaria. Tutto a posto? No. In un trionfo burocratico di visto che, richiamato che, preso atto che, gli acquisiti, esaminato, eccetera, bisogna annullare la gara. E perché? Quale sarebbe il grave vizio rilevato che imporrebbe l'annullamento di questo concorso? Esami truccati? Errori nelle tracce? Irregolarità? Ma che? Si annulla tutto perché le domande formulate erano di eccessiva complessità. E quindi questa che ha vinto, che era la più brava di tutti, brava, finalmente, la meritocrazia! No, no, no, sapeva cose che altri non sapevano, è troppo brava, annullare, annullare. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, ma perché la butti sempre a caciara? Va bene, un po' come te, caro ascoltatore, mi sembra in finale di messaggio. Allora, dobbiamo parlare di quello che è il terrorismo, quelli che sono gli eventi degli ultimi giorni e delle ultime settimane, a cominciare dalla Germania, dove anche ieri sera c'è stato un episodio abbastanza inquietante, un'esplosione, si racconta che questa esplosione sia legata probabilmente a un attentato terroristico fallito, perché c'è un morto, probabilmente colui che portava un ordigno, vicino a un festival di musica nella città di Ansbach, e che dire, non si sa molto, c'è un unico morto, pare la persona appunto che portava l'ordigno, non ci sono grandi altri dettagli, ma soprattutto ancora c'è negli occhi di tutti la vicenda ultima solo in ordine di tempo, quella di Monaco di Baviera, dove questo killer ha freddato soprattutto giovani vicino a un centro commerciale, tra l'altro prima richiamandoli con un falso profilo Facebook dicendo andate tutti al McDonald's che ci saranno promozioni eccetera, e poi era tutto parte del piano delirante per uccidere queste persone. Ora si viene a scoprire, come raccontano i giornali, che preparava la strage da un anno, questo racconta almeno il Corriere della Sera, Giusy Fasano, e si parla anche di un complice. Se non altro è stato fermato un sedicenne afghano che ieri sera è stato arrestato in Germania con l'accusa di aver saputo dei progetti omicidi di Alison Bolli e non avere fatto nulla per fermarlo. L'adolescente, conosciuto da Ali durante i suoi ricoveri psichiatrici, avrebbe aiutato il killer a creare un falso profilo Facebook col quale ha attirato i ragazzi al McDonald's promettendo panini scontati. Questo è l'ultimo tassello in ordine di tempo di questa storia che già ieri contava molti nuovi dettagli. Da un anno puntava a questo. Il killer di Monaco era stato addirittura in pellegrinaggio sul luogo di un altro massacro, e cioè di Utøya in Norvegia. Tra l'altro, ieri la Germania è ripiombata nuovamente nel terrore. Perché? Perché un rifugiato siriano ha ammazzato col macete una donna incinta, quindi anche il suo figlio, una donna di origini polacche. Ma come racconta Davide Casati a pagina 3 del Corriere della Sera, in questo caso non si parla di terrorismo da parte della polizia, ma si parla di moventi probabilmente sentimentali. Qualcuno racconta di questo Mohammed Alelo, questo racconta il quotidiano Stuttgart Zeitung, che si sarebbe invaghito, sarebbe innamorato di questa giovane di origine polacca che lavorava in un luogo che lui frequentava. Nel pomeriggio tra i due è scoppiata una lite nella zona della stazione degli autobus, a poche decine di metri dal ristorante dove lavorava questa donna polacca. L'uomo l'ha aggredita con un macete, uccidendola appunto. Però è chiaro che qualsiasi episodio, anche questo, fa ripiombare qualsiasi paese nel terrore, soprattutto la Germania, dove c'è stato questa serie di attacchi a Monaco e poi anche ieri, ricordiamo, anche ad Ansbach vicino a Norimberga, davanti a un pub, questa esplosione. Tra l'altro raccontano tutti i giornali, lo fa Il Giorno molto bene, lo fanno anche altri quotidiani, di come sia facile al mercato nero, il mercato nero via web, acquistare delle armi, come per esempio l'acquisto di una Glock per 600 euro, stesso modello della strage di Monaco. Racconta Vincenzo Malara, pagina 7 del Giorno, chiunque di noi potrebbe comprare una Glock 17 da 9 mm, come confermato dalla polizia. Il 18enne tedesco iraniano Alison Bolli l'ha acquistata in maniera assolutamente anonima via internet. siamo in Europa, nessuno può entrare nel negozio dietro l'angolo e portarsi a casa un arsenale da guerriglia, come succede in alcuni stati degli Stati Uniti. Ma grazie alla cosiddetta rete oscura, il deep web, tutto è possibile. Bastano pochi aggiornamenti e l'agghiacciante realtà contro cui combattono le autorità internazionali è questa: un mercato nero difficilmente controllabile che permette a cellule terroristiche improvvisate o a squilibrati di beffare i controlli e acquistare un'arma. Viene anche spiegato come sul giorno, io non ve lo leggo, ma insomma lì c'è proprio con alcuni accorgimenti andare nel cosiddetto deep web, il web tra virgolette nascosto. Quello che succede a Nizza invece è un'altra problematica. A Nizza c'è una poliziotta ora che accusa il governo francese di pressioni. Questa donna si chiama Sandra Bertin, o Bertin, noi lo leggeremo in italiano, che è una sindacalista, la quale dice: il governo mi ha obbligato nella relazione, che nel rapporto finale che devo scrivere sulla strage di Nizza, di scrivere che erano presenti sulla promenade agenti della polizia. In realtà io non ho visto agenti, c'era solo la polizia municipale. Ed ecco allora che l'intervista a questa Sandra Bertin viene riproposta dal Corriere della Sera, è un'intervista di Camille Neveu in Francia. La responsabile dei controlli video dice: ricorderò quell'ora per tutta la vita in video. Ho visto il camion alle 22:33 minuti entrare sulla promenade des Anglais. È stato orribile assistere alla strage di passanti mentre i miei colleghi facevano il massaggio cardiaco a bambini. E ho potuto notare che non c'erano poliziotti sulla promenade. E il giorno dopo gli attentati il gabinetto del ministro dell'interno ha inviato un commissario al centro di sorveglianza che mi ha messo in contatto con il ministero dell'interno. Ho avuto a che fare con una persona frettolosa che mi ha chiesto un rapporto indicante i punti di presenza della polizia municipale, le barriere eccetera. Gli ho risposto che avrei scritto solo quello che avevo visto o che forse c'era la polizia di stato ma non mi è apparsa nei video. Insomma, la polemica sulla sicurezza in Francia rispetto a quello che è successo. Va bene, a proposito di immigrazione, vi segnalo sull'immigrazione l'inchiesta della Stampa. La Stampa fa da qualche giorno un'indagine sui migranti, il nuovo piano del governo, quello di distribuire con un rapporto di 2,5 migranti ogni 1000 abitanti nei comuni. Ma eccolo qua, Rafael Zanotti, a pagina 3. 3 comuni su 4 senza migranti, ma più di 1000 sono già in emergenza. È una mappa dell'Italia che trovate sulla Stampa con i colori vari, verdi, gialli, rossi, cioè dove ci sono più migranti rispetto a questo rapporto 2,5 ogni 1000 abitanti e dove invece ci sono comuni che non ne ricevono. Per esempio il comune di Alessandria, con il sindaco Rita Rossa del PD, che nei giorni scorsi ha protestato in maniera vibrante per l'arrivo di nuovi profughi, ad Alessandria ci sono 323 su una popolazione di 93.000 abitanti. Dunque, se il piano del governo fosse già operativo, secondo il rapporto 2,5 ogni 1000 abitanti, dovrebbero esserci 235 migranti, non 323. Quindi di fatto Alessandria risulta avere 88 persone in più secondo questo rapporto. E vabbè, comunque c'è tutta la mappa, chi accoglie di più, chi accoglie di meno. C'è anche l'intervista al sindaco di Brognaturo in provincia di Vibo Valentia, che risulta essere il comune dove c'è il più alto squilibrio, cioè il più alto numero di immigrati in rapporto agli abitanti, perché pensate che 650 sono gli abitanti di un territorio di 25 km quadrati e hanno 146 richiedenti asilo. Però il sindaco dice: nessun problema. Anzi, a Brognaturo, dove c'è un profugo ogni 5 abitanti, se ce li togliessero sarebbe una pessima cosa, dice il sindaco di questo paese, Giuseppe Iennarella si chiama. E perché sarebbe una pessima cosa? Sentite qui. Perché l'arrivo dei migranti all'hotel ha permesso all'albergo di evitare la chiusura. ha prodotto qualche posto di lavoro, la cooperativa nata per la loro gestione, il pulmino che ogni domenica porta alla messa ai migranti cattolici, qualcosa nell'integrazione, poca roba, ma meglio di niente. Cioè io dico, siamo a questo livello, a sperare nell'arrivo dei migranti, perché così l'hotel del paese non chiude e si crea un po' di indotto di lavoro. Io non ho parole, ma come sapete il nostro buon Mauro Meazza è già in ferie, ma poteva lasciarci così nudi, così svestiti, caro Mauro? Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho pensato che non era giusto lasciarti senza gli endecasillabi del lunedì nella tua ultima settimana e quindi, con il tuo permesso, ma anche senza, vado a declamare. Vai. Ti giunga il verso mio, fratello Alino, per le ultime levate antelucane. Ti lascio lì, con Nespoli e l'Alpino, a raccontar di tasse e di altre grane, come quelle riforme maestose che tutti eravamo pronti a decantare, or piangon come le obliate spose lasciate da un fedifrago all'altare. Giustizia, concorrenza e sanità e molto altro ancora leggerai sul Sol 24 Ore, che si sa per leggi ed attuazione ci piglia assai. Ma cessi ormai da oggi la schermaglia che ci vuol contrapposti ogni mattino e il caro agosto che già l'erba impaglia ti lasci infine fare un pisolino. Veggio il Milan che al caldo si riposa, mentre lo sole che l'enorme schiara neppur d'estate la sua penna posa e nuove inchieste e inserti ti prepara. Oggi saprai di multe e di pensioni e di tant'altre cose molto serie. Però, per rispettare le tradizioni, io traffico, lo dico, e buone ferie. Alessandro Mila, il conduttore che sembra a che fare con la carta. E sai che ci deve fare con la carta? Ci si deve pulire il... Va bene, cari ascoltatori. È vacanza quasi per tutti, mi sembra di capire. Mandate al 349-238-6666 i vostri messaggi, anche WhatsApp. Allora, l'economia, il ministro dell'economia Padoan dal G20 in Cina parla di pochi casi circoscritti e, parlando delle banche italiane, lancia questo messaggio al mondo, all'Europa, nella settimana in cui venerdì ci saranno gli stress test. Le banche italiane sono solide. Il ministro dice barra dritta sulla politica di crescita. Nella legge di bilancio la priorità resta lo stop agli aumenti IVA. Anche Visco per Banca Italia dice nessun problema di sistema, sono 7-8 miliardi di sofferenze che potrebbero pesare sui mercati. Queste le dichiarazioni ufficiali. Vi segnalo però su questo tema interessante l'articolo di Alessandro Barbera sulla Stampa, pagina 5. Alessandro Barbera racconta di un governo diviso. Il caso che divide è il caso Monte Paschi Siena. Il titolo: Renzi non vuole il decreto, ma per Padoan è inevitabile. Dice Padoan da Chengdu che per il momento non è necessario ricorrere a misure di bail-in sulle banche italiane. Mai altra battuta avrebbe potuto rilevare con tanta onestà a che punto sia la soluzione del caso Montepaschi. Spiegano fonti di governo. Ci sono ancora diverse ipotesi aperte. Alcune contemplano l'intervento dello Stato, altre no. E racconta Barbera, Matteo Renzi ha un bivio. Venerdì l'autorità bancaria europea pubblica l'esito degli stress test sulle 51 grandi banche del continente, 5 delle quali italiane. È una simulazione sul grado di tenuta di fronte a un eventuale shock sui mercati finanziari. E i vertici delle banche coinvolte, il Tesoro, ne conoscono riservatamente l'esito già da ieri, ma è un segreto di Pulcinella. Saranno promosse Intesa, Unicredit, UBI e Banco Popolare, mentre verrà bocciato il Montepaschi. E allora sulla soluzione nel caso Montepaschi. Secondo la Stampa, il premier Renzi preferirebbe una soluzione totalmente privata, gli eviterebbe due grane uguali e contrarie. Uno, il fastidio dei contribuenti che assisterebbero all'uso di fondi pubblici per risolvere gli errori dei banchieri, e quello degli obbligazionisti costretti dalle regole europee a un taglio del valore nominale dei titoli. Ma il governo su questo è diviso. Da un lato c'è il ministro del Tesoro Padoan, sempre più convinto, così come la Banca d'Italia, della necessità di un intervento statale. Dall'altra invece Renzi e il ministro Boschi, i quali più che alle conseguenze finanziarie riguardano a quelle politiche. Renzi è proiettato all'autunno la legge di stabilità come passare indenne il voto sul referendum costituzionale. E poi c'è anche una questione, scrive Barbera, non di poco conto, e cioè se ci fosse il decreto, il salvataggio pubblico, deputati e senatori sarebbero costretti a Roma a cavallo di Ferragosto per la conversione del decreto. Boschi, che è ministro per i rapporti col Parlamento, è preoccupata solo all'idea. Va bene, li vedremo forse lavorare per Montepaschi a agosto, staremo a vedere. Intanto, sempre sul tema economia, il governo, secondo sempre Repubblica, rivedrà le stime del PIL. Padoan dal G20 dice: il governo è pronto a rivedere le stime di crescita del PIL alla luce dell'incertezza e il dopo Brexit. Roberto Petrini, che ne scrive a pagina 4 di Repubblica. Va bene, la politica invece si concentra sempre su Berlusconi, che guarda a Parisi come uomo che può rilanciare il centrodestra. Ci sarà un nuovo summit ad Arcore con i vertici del partito. L'idea è affidare all'ex manager la riorganizzazione di Forza Italia. Vedremo se anche questo sarà un parto come la vendita del Milan ai cinesi o se invece ci sarà un'accelerata. Non ci sarà un'accelerata invece, cari signori, questo è abbastanza chiaro, sulla vicenda della legalizzazione delle droghe leggere. Oggi proprio parte il dibattito, ma è vincolato alla presenza di credo 2000 se non più emendamenti. La proposta di legge è quella di legalizzare la cannabis, per la prima volta se ne parla in aula. Si discute la possibilità di legalizzare l'uso personale. Questa legge, come racconta Il Messaggero a pagina 9, che dedica una pagina a questo tema, prevede la possibilità di detenere in casa liberamente fino a 15 grammi di cannabis, di portare in giro con sé e senza autorizzazione fino a 5 grammi di cannabis, la possibilità di coltivare in casa in forma di autoproduzione fino a 5 piante di cannabis. Si potranno coltivare anche in associazione con altri fino a 50 persone mediante i cosiddetti social club. Insomma, questi sono i punti essenziali. Sarà possibile coltivare, preparare, vendere cannabis in appositi negozi che devono essere autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo prevede la legge, quindi la cannabis legalizzata. Sarà sempre vietato fumarla in luoghi aperti al pubblico, ambienti di lavoro pubblici e privati. Ci sarà però la discussione? Non sarà una passeggiata. Sono stati presentati 1700 emendamenti, 1300 solo di Area Popolare, che prepara le barricate. Questo racconta Antonio Calitri sul Messaggero. Staremo a vedere, ce la faranno oppure no. Ce l'hanno fatta invece le unioni civili, è arrivato il decreto, la legge cosiddetta Cirinnà, è arrivato il decreto, si dice le prime unioni a Ferragosto, in realtà ieri, come racconta in pompa magna Maria Novella De Luca a pagina 6-7 di Repubblica, c'è stata la prima unione civile, sono due donne a Castel San Pietro nel Bolognese, si sono unite civilmente, questa è la formula che è stata utilizzata dal sindaco, e c'è un'intervista al ministro della giustizia Orlando che a pagina 7, commentando questa notizia, dice: un giorno importante non solo per chi si unisce e celebra le unioni, ma per tutta la società. Orlando dice: è una svolta storica e la prossima frontiera è il diritto di adottare. Il decreto cosiddetto Ponte sarà emanato entro agosto. Ma ora la prossima sfida è questa. Ritengo che una disciplina sull'aspetto delle adozioni sia necessaria. Le condizioni politiche non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo, le cose sono rimaste come erano prima. Il giudice valuta l'interesse della continuità affettiva del bambino. Chi non ha voluto una disciplina in materia, qualunque fosse, non può lamentarsi adesso del fatto che questa lacuna sia colmata dal giudice alla luce delle norme vigenti. Ma fa capire Orlando, questa è la nuova sfida. C'è un vuoto, se ci fossero le condizioni politiche venute meno per un clamoroso cambio di posizione del Movimento 5 Stelle, penso che sarebbe più proprio affrontare la questione nell'ambito della riforma delle adozioni piuttosto che in relazione alle unioni civili. Comunque Orlando dice: bisogna puntare a quello, alla possibilità di adottare. Vi voglio segnalare una lunga inchiesta di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera sul caso Regeni, Giulio Regeni, ucciso al Cairo, ricercatore italiano. L'ultimo SMS, i testimoni reticenti, la richiesta di Regeni al prof. Si racconta di varie testimonianze di Regeni che era entusiasta per qualcosa che aveva scoperto sulla sua ricerca e che lo stava facendo progredire. Ne voleva parlare con il professor Gennaro Gervasio, che avrebbe dovuto incontrare quando è uscito ed è stato poi rapito, presumibilmente dai servizi segreti. Ne aveva accennato qualcosa in una mail a un altro avvocato egiziano con cui era in contatto. Non si capisce bene che cosa avesse scoperto, e questo è un po' il leitmotiv dell'inchiesta di Giovanni Bianconi a pagina 16 del Corriere della Sera. Ma eccoci qua al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, che ci fa in qualche modo riagganciare con il tema di apertura della rassegna stampa, e cioè la RAI. Perché parto da lì? Perché tra gli stipendi della RAI ci sono anche i 230.000 euro di consulenza a Francesco Merlo. Francesco Merlo, che è una firma importante di Repubblica e che oggi per due pagine, non una, non una e mezza, ma due pagine, pagina 20 e 21, racconta la ricerca dei Pokémon coi figli. Francesco Merlo, senti, qui al cimitero, accanto alla tomba di mio padre, mio figlio Rodrigo, 13 anni, nome da cacciatore Rodzels, cattura un grottesco Pokémon bug da 57 kg chiamato Pinsir. Ma chi se ne frega!